Capitolo 33. Giacobbe alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esaù che veniva avendo con sé 400 uomini. Allora divise i figli fra Lea, Rachele e le due serve. Mise davanti le serve i loro figli, poi Lea e i suoi due figli, e infine Rachele e Giuseppe. Egli stesso passò davanti a loro e si inchinò fino a terra 7 volte, finché si fu avvicinato a suo fratello, ed Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Poi Esaù, alzando gli occhi, vide le donne e i bambini e disse: «Chi sono questi che hai con te?» Giacobbe rispose: «Sono i figli che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo». Allora le serve si avvicinarono con i loro figli e si inchinarono. Si avvicinarono anche Lea e i suoi figli e si inchinarono. Poi si avvicinarono Giuseppe e Rachele e si inchinarono. Allora Esaù disse: «Che ne vuoi fare di tutta quella schiera che ho incontrato?» Giacobbe rispose: «È per trovare grazia agli occhi del mio signore». Ed Esaù: «Io ho molta roba, fratello mio. Tieni per te ciò che è tuo». Ma Giacobbe disse: «No, ti prego. Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono dalla mia mano, perché io ho visto il tuo volto come uno vede il volto di Dio, e tu mi hai fatto buona accoglienza. Ti prego, accetta il mio dono che ti è stato presentato, perché Dio è stato molto buono con me, e io ho di tutto». E tanto insistette che Esaù l'accettò. Poi Esaù disse: «Partiamo, incamminiamoci, io andrò davanti a te». Giacobbe rispose: «Il mio signore sa che i bambini sono in tenera età e che ho con me delle pecore e delle vacche che allattano. Se si forzasse la loro andatura anche per un giorno solo, le bestie morirebbero. Passi dunque il mio signore davanti al suo servo, e io me ne verrò pian piano, al passo del bestiame che mi precederà e al passo dei bambini, finché arrivi presso al mio signore a Seir». Esaù disse: «Permetti almeno che io lasci con te un po' della gente che ho con me». Ma Giacobbe rispose: «E perché questo? Basta che io trovi grazia agli occhi del mio signore». Così Esaù, in quel giorno stesso, rifece il cammino verso Seir. Giacobbe partì alla volta di Succot, costruì una casa per sé e fece delle capanne per il suo bestiame. Per questo quel luogo fu chiamato Succot. Poi Giacobbe, tornando da Padaram, arrivò sano e salvo alla città di Sichem, nel paese di Canaan, e piantò le tende di fronte alla città. Per 100 pezzi di denaro comprò dai figli di Camor, padre di Sichem, la parte del campo dove aveva piantato le sue tende. Eresse qui un altare e lo chiamò El Eloe Israel.